E ciao a tutti, buonasera. Ed ecco un altro giovedì in compagnia di 8 Hertz. Abbiamo un ospite in regia che è THX. L'abbiamo sentito il mese scorso con un live mozzafiato qua proprio in regia. Ciao. In realtà questa trasmissione è un'idea sua, perché mi ha detto facciamo qualcosa su Mick Vainio, e gli ho detto sì, so che gli piace tantissimo. Purtroppo Mick Vainio ci ha lasciato il 12 aprile del 2017 all'età di 52 anni, ma questo non è un necrologio per Mick Vainio, ma ve lo vogliamo fare ascoltare in tutte le sue forme solistiche. Intanto, chi è Mick Vainio? È un, se si può dire, un musicista finlandese. Se qualcuno lo conosce perché è membro, era membro del duo dei Panasonic, e poi dopo si chiamarono Panasonic perché la Panasonic li denunciò. E il primo disco sotto Panasonic, come nome Panasonic, si chiamava A, messa proprio in mezzo a Panasonic per ribadire il concetto. E comunque vabbè, qui siamo nei meandri della musica elettronica, che prende spunto da tante cose che ci piacciono, un po' dall'industrial, un po' dalla minimale, anzi molto, e hanno proprio creato un esempio che seguono tutti i musicisti elettronica che sono venuti dopo, praticamente. Sei d'accordo? Sì, assolutamente. Sono stati degli ispiratori, Panasonic. Degli ispiratori. Potete trovare un po' la discografia a giro, però appunto vi parleremo di solamente delle cose che ha fatto negli anni Mick Vainio, perché appunto la trasmissione è un omaggio a lui. È un personaggio particolarissimo, perché da quanto risulta un po' nelle interviste, era una persona abbastanza schiva, ma che poteva dare tanto a chi lo convinceva nel parlare. Una persona che non sa nulla di musica, ma è un grande conoscitore della musica, nel senso che non conosceva una nota praticamente. Tutto quello che viene che ha fatto l'ha costruito da autodidatta, e è riuscito a creare dei suoni sempre perfetti. Una persona la quale affermava che le sue hertz preferite erano le 50 hertz, quindi siamo sulle basse, insomma. Che dici? e poi vabbè, insomma, se abbiamo delle altre cose da dirvi, piano piano ve le diremo. Ma comunque la puntata è incentrata molto sull'ascolto. Tu che non lo conosci, se c'è qualcuno che non lo conosce, è connesso, potrà trovare magari qualcosa di interessante. Vi consigliamo un ascolto non da cellulare, ma insomma, se avete un computer attaccato a delle casse, ecco, quello potrebbe essere un migliore ascolto, visto che qui si sta facendo ascoltare delle composizioni, delle tracce con veramente frequenze ai limiti dell'udibile, anche e anche tracce rumorose, insomma. E intanto partiamo, direi, con cosa, Rick? Con un brano tratto dall'album Toolkit di Mica Vainio. Ok, perché che è praticamente la title track, si intitola Kopenhaminaleinen Toolkit. Vabbè, i titoli non siamo bravi, non so come si pronuncia, ma ci provo, insomma. E adesso, intanto, mentre sceglie il disco che sta facendo partire, ha fatto vari progetti con vari nomi. Appunto, questo è quello che ascolteremo per prima. Non so di che anni è. Questo è una compilation che è uscita negli anni 90 e le tracce, la traccia che ascolteremo è del 92. Ok, e pensate che nel 92 si sentiva già queste bellissime cose sperimentali anche. E qui stasera si va a mano proprio con il CD. Thank you. Stiamo ascoltando Mica Vaino, in particolare questo disco è fatto sotto il nome di Fi, che sarebbe uno zero barrato, che in inglese vuol dire null, zero proprio, però ha tante valenze. Mi diceva THX che è anche il simbolo della fase. Può dire anche del diametro, anche del diametro e tante altre cose. In realtà anche la sigla dell'accordo semidiminuito, insomma, però vabbè, non credo che si riferisca a questo. Comunque erano due pezzi tratti da Tulkinta, che significa impressioni. È un album del 97. Mentre cambiamo pezzo, scegliamo altre cose. Cosa possiamo dire? Che Impressioni è un titolo particolare che un po' descrive un po' il suo modo di comporre, visto che proprio ci teneva a comporre a seconda di uno stato d'animo, di quello che gli andava, per poi a un certo punto far succedere qualcosa che derivava dagli imprevisti, tipo un film che le ha colpito molto, e così traduceva poi in musica la sua persona, il suo sentire. Dimmi. Non so, mandiamo qualcos'altro. Sì. Mandiamo un brano che si intitola Uponut. Da cosa è preso? Sempre da... Da un EP degli anni 90, sempre. Ok, intanto lo stiamo per mettere. Era molto influenzato dalla techno, insomma, non musica intellettualoide, ma roba anche più ballabile, volendo, tradotta a modo suo. Thank you. Sei su Radio Wombat, questa è 8 Hertz e stasera siamo con THX per un ascolto totalizzante di roba di Mika Vainio. Un altro pezzo come Fi, ovvero lo zero cerchiato. Ascoltando Fi o Zero Cerchiato, ovvero Mika Vainio, il pezzo si chiama Sistan, tratto da Metri, che è il primo album suo sotto questo nome del 94. Questa è Ornitus, sempre tratta dallo stesso disco, ovvero Metri del 94. No. E abbiamo sentito questi due bellissimi pezzi uno dopo l'altro. In realtà le basse veramente spaccano. E vi voglio ricordare che Mika Vaino non suona con il computer, con il laptop, non produce con il computer, ma solo con macchine, con synth veri e propri e anche autocostruiti, per dare un suono sempre e solo personale. E io mi ricordo quando li vidi dal vivo la prima volta i Panasonic, appunto avevano questi synth che sembravano delle macchine da scrivere, tipo una cosa del genere. Sì, è vero, infatti c'è uno dei synth che usavano, si chiama proprio Typewriter, che è costruito con, cioè, dentro la custodia di una macchina da scrivere praticamente. Sì, infatti la forma era quella, e mi ricordo che addirittura mentre suonavano, non mi ricordo se lui o l'altro, comunque se li portavano all'orecchio. A volte li buttavano pure per terra mentre suonavano ai concerti, gli tiravano delle mazzate. Era molto rock and roll poi alla fine. Sì. E quindi sì, ho avuto il piacere di vederli due volte, purtroppo solo due volte, ma era uno spettacolo proprio da vedere. E andiamo avanti, cosa ci metti, THX? Direi di ascoltare un brano dall'album Magnetite sarebbe. Ok. Terza traccia, che è del 2012, uno degli ultimi che ha fatto come Mika Vaino. Quindi abbiamo uno sbalzo tra gli anni 90 e roba più attuale. Anche lui come suoi è andato avanti. Magnetosfera si intitola. Il pezzo è Magnetosfera, tratto da Magnetite del 2012, che è un discone, insomma. Thank you. il pezzo è finito, è difficile distinguere il cambio tra un pezzo e un altro nei vari album. Qui abbiamo sentito un sound più dronico e anche che paradossalmente più basato sul silenzio. E in quanto a silenzio ci ha fatto un po' una stilistica che affermava che il silenzio è vicino alla stanza vuota giapponese che tanto gli piaceva. Per cui la stanza vuota in realtà è il primo oggetto importante del tutto, perché da una stanza poi puoi costruirci qualcosa, per cui il vuoto è essenziale anche nella musica. Che ne dici? Sei d'accordo? Sono d'accordo. D'accordo. E poi non so ora cosa metterà THX. Ora ascolteremo un brano tratto dall'album Olento, che è la prima traccia, che si intitola Oleva. Olento, sempre di Zero, sì. Barrato, ecco, diciamolo. 95? 96, forse. Olento è del 96, esatto. Quindi si ritorna un po' indietro in cose più meno ambientali, meno rumorose, un pochino più ritmate, seguendo un po' gli anni 90, ecco. Ci ascoltiamo anche la traccia dopo, sempre tratta dallo stesso album, Olento. Si intitola stratostati. Cioè li stiamo leggendo da con la lente di ingrandimento perché sono minuscoli. C'è anche un motivo. Thank you. E questo era Fee, ovvero uno dei nomi di Mick Vainio della sua produzione solista. Era la seconda traccia stupenda del disco Olento del 96, che la traccia si chiama Stratostati. Allora, una cosa che vi volevo dire è che la tape writer, questo synth che ha usato lui negli anni, che sarebbe un complex sound generator, è stata fabbricata da Jari Lehtinen, che è anche il personaggio che faceva i Panasonic i video dietro, che in realtà aveva creato un oscilloscopio. Cioè, mi ricordo, dal vivo avevano uno sfondo bianco con una linea centrale nera che, a seconda di quello che facevano, si muoveva e creava delle forme d'onda che ti spaccavano il cervello anche a vederle, basta. E però Mica Vainio racconta in un'intervista, non un'intervista, viene raccontato, tante cose che vi dico sono state raccontate da Tommy Grunlund, di un'intervista che ha fatto da poco nella rivista Wire, che è l'owner, fondatore della Sasco Label, che tra l'altro ci collaborava anche da coproduttore. Mick Vainio, le prime cose che ha fatto sia come solista che come Panasonic erano proprio etichettate dalla Sasco Label. Sasco, perdonateci, ma tipo, non sappiamo il finlandese, questa lingua astrusa ma bellissima. E lui insomma affermava, tramite le parole proprio di Tommy Grunlund, Sasco comunque vuol dire elettrico, ok, quindi ci siamo pienamente. Sai che tantissimi anni fa ancora studiavo e mi ero flashato con i Panasonic e Mick Vainio, e li mettevo di notte al buio mentre ero a letto prima di dormire, al buio pesto. A quei tempi abitavo in doppia con un altro ragazzo e lui di notte entrò, io ero lì sdraiato e si sentiva questi suoni, questa musica, e mi disse: oh, chi sono sti fusi? Sembra di stare in cucina. Io apprezzai moltissimo il commento, perché insomma mi dirigeva la musica comunque verso appunto roba da elettrodomestici alla fine. Vero. E mi dispiace che, se non potete ascoltarla in un impianto decente, perdete un po' il 50% delle cose che stiamo ascoltando, perché ci sono appunto le frequenze basse che aumentano di parecchio la bellezza dei brani. Quindi magari se non avete un impianto ve lo consiglio almeno in cuffia. E comunque, vabbè, ho aperto sta parentesi, ma in realtà volevo dirvi sulle proiezioni che Mick Vainio si rifiuta di suonare con proiezione, si rifiutava di suonare con proiezione, a meno che non fossero astratte, in bianco e nero o forme geometriche, perché infatti il disco che abbiamo qua è un DVD, il DVD Putki. Ok, parlacene tu. Cuva Putki è un DVD che è uscito qualche anno fa di Panasonic, che era il sonoro registrato dal vivo a New York, e il video è fatto da questo Edward Quist, che è un newyorkese che fa video e fa delle cose molto belle, molto minimali, in bianco e nero in genere. Tra l'altro si può vedere anche su archive.org questo DVD completo, che è un bel sito. Kuva Putki in finlandese vuol dire tubo catodico, quindi risiamo un po' sulla sulle apparecchiature domestiche, esatto. Ecco. Questo immaginario, sì. Bene, e quindi ora cosa ci fai ascoltare? Allora, cioè, sti pezzi sono uno più bello dell'altro, tra l'altro. Dovrei ascoltare... un brano degli anni 90, sempre Olematon. Ok, Olematon, brano degli anni 90 che si trova in una compilation, se ho capito bene. Sì, era uscito come 12 pollici, credo nel 95, sull'etichetta P Recording. Ok. Dell'EP non lo ricordo, allora il titolo dell'EP è Atomit, ok, e il brano si intitola Olematon. È difficile trovare tutti i credits ufficiali delle cose di questo genere, perché hanno fatto produzioni, tantissime produzioni, per cui poi tutte in lingua astruse. Lo rimetterei da capo, però. Ascoltiamocelo, sì, perché ci si stava parlando sopra. E eccolo, arriva. Eccoci qua, siete su 8 Hertz nella Radio Wombat, ma questo lo sapete perché ci siete arrivati attraverso il sito di Radio Wombat, che ha anche un Facebook, che ha un Twitter e che ha una mail che è interessante, che si chiama, forse per voi la più interessante, perché si chiama postawombat@insiberia.net, e lì ci potete scrivere chiedendoci tutto quello che vi va, criticando le trasmissioni oppure strappandovi i capelli perché le puntate, soprattutto a nostre, sono bellissime. E insomma, partecipate un po' attivamente in questa radio fiorentina che parte dal basso. Insomma, ora arriviamo un po' all'agenda, e questa agenda oggi è un po' particolare perché al Next Emerson, da stasera, tra poche ore, fino a sabato notte, ci saranno 3 giorni che si chiama Il Fest del collettivo Nuovi Rumori. Tra poche ore, tra pochissimo anche, anzi dalle 10:30 partiranno gli Youth Avoiders di Parigi, punk and roll master che di più non si può, gli Stalled Minds sempre di Parigi, calci in bocca e testate dalla Torre Eiffel, Sect Mark da Roma, ex Lexicon Devils, lo fai punk hardcore per capirci, e gli Hermes Nostrani, 3/4 di Prato, 1/4 di Piacenza, che sono gli ex Topsy the Great, ex Architecture of the Universe, ex altre 3000 cose, e ora fanno un po' di cose, appunto. Venerdì dalle 18 c'è l'iniziativa sull'antispecismo con il collettivo Agripunk, poi alle 21 cena Benefit, si mangia benissimo. Dopo, dalle 22:30, concerti con Black Gremlin da Parma, Rovenroll Pestifero, Woodwall da Massa, Stoner Sludge Legnoso, e In Nausea Orchestra di Prato che fanno Stoner Rock. Sabato 27 maggio, scusate, dalle 22, l'ultima giornata del Fest, ci saranno Tutti i colori del buio a Torino, che fanno 666 hardcore, che vanno per la maggiore, anche gli Zeit vanno per la maggiore, che suoneranno, che si chiamano, è descritto come gondole post-apocalittiche adatte al punk, perché son di Venezia. Council of Rats di Milano, Cappucci Tirati Su e Tupa Tupa, che presentano il nuovissimo disco Quartz. I Benci da Grosseto, pensa un po' come siamo messi, nuovo frizzante duo Madcore. Gli Egeria da Firenze, Death and Roll Masters. I La Quenta, Sludge Masters fiorentini, più o meno, presentano la confessione di Antonius Block, il loro ultimissimo lavoro, un pezzo lungo 35 minuti, non portatevi i tappi perché altrimenti, insomma, non si raggiunge lo scopo di spaccarvi i timpani. Gli Insight di Firenze, post-punk new wave, a seguire il DJ set dei Radiaioli di Radio Wombat. Insomma, questo fine settimana, da stasera fino a sabato, siete coperti, non vogliamo scuse, è al Next Emerson di Firenze, praticamente irrisorio come cosa, e anzi, mettetevi i giacchetti, le camicette o quello che vi pare, venite in bicicletta, in motorino o scooter, ma il motorino è più figo, insomma, con qualsiasi mezzo, chiappate, alzate il culo o le chiappe, chiappate le chiappe e andate all'Emerson, che tra poco inizia la festa fino a sabato. Ok, abbiamo detto tutto, se non il palinsesto di Radio Wombat, che se ancora non l'avete visto, date un'occhiata sul sito, ma c'è un po' di tutto, da musica africana di Uru, a Fuoco alle Polveri, alla revancia sul punk. Fuoco alle Polveri è un contenitore di tutto di più, il rovescio della medaglia tra aneddoti sportivi e musica, Cocktails Liscio, che è un giornale radio, La fuga del gatto di Classica, Slick Chicks, Chick senza plurale, che ha sempre argomenti sempre diversi e musicali. Forse ho sbagliato, era 3000 siepi quell'altro, ma va bene, tanto non ci ascolta il fautore. Tonight Alive con dei live pregiatissimi e introvabili. Mortal Wombat sull'hip hop europeo e italiano, 8 Hertz, che siamo noi fulminati di testa, e l'Accademia della Brusca, addirittura un programma di linguistica simpatico e antipatico. THX mi guarda male, è una fatica di tutte queste cose, però insomma vanno dette. Cosa mettiamo? Ah sì, scusa, me l'avevi detto, era un pezzo tratto da un disco del 1999 firmato Mika Vainio, quindi non l'altro termine strano, che ha vari pseudonimi in realtà, ha usato, esatto. Anche Filus ha usato, che poi dopo ascoltiamo anche Filus. Esatto, c'è anche Filus. Il disco si chiama Idin, è uscito per la Wave Trap come etichetta, e il pezzo si chiama Energia. Fortunatamente a sto giro possiamo dirlo tranquillamente, che è una parola che conosciamo bene, però in realtà che conosciamo poco, perché l'energia bisogna sempre tenerla presente, soprattutto proprio quella vera, la carica. E dunque ascoltiamoci Energia. Che super mega pezzo, bellissimo. che stupenda dronata proprio. Ci avviamo verso la fine. Mettiamo un pezzo fatto da lui come Filus, che era un altro suo pseudonimo, tratto da Tele del 1900. Ok, Tele è il nome del brano. L'album si intitola Tetra, è del 1997. Il progetto Filus era molto più techno rispetto alle cose che abbiamo ascoltato, ma non quelle iniziali. E poi ascolteremo l'ultimo pezzo. Questo disco Tetra invece è più, diciamo, ambient sperimentale. Ok, mi dice che invece Tetra è più ambient sperimentale, anche se il progetto Filus era più tecno. Sta andando. Buon ascolto, sempre solo Mika Vaino stasera. Thank you. E siamo sul finale, mettiamo l'ultimo pezzo, che è sempre un'intervista a lui. Gli hanno detto: perché hai dedicato una traccia di Magnetite, che è un disco che abbiamo, un pezzo l'abbiamo sentito prima, alla stanza di, della TV di Elvis? Dopo averla vista, l'intervistatore narra che fa paura veramente, sembra essere uscita da un artwork dei Throbbing Crystal. E la sua risposta è stata che è stato il posto più spaventoso dove lui sia mai stato, artificiale al 100%, e era convinto che lì il campo magnetico non esisteva. Per cui ve la mettiamo come finale. Ringrazio tantissimo THX, che ci ha deliziato, prego, di stasera, di questo viaggio nelle atmosfere, nei rumori, nelle energie di Micca Vaino, che ci mancherà tantissimo. E vi lasciamo con questo ultimo pezzo. Buonanotte, buonanotte. Narra della stanza della TV di Elvis Presley.